past the storm. Che corre, corre come il vento, travolge tutto e smania di universo. Ma che sapore ha la vittoria? Ma che sapore ha poi la gloria? Il nostro giorno sta nascendo, e mentre guardi il sole è già finito, di che vivrà sera.